Capitolo 11. Insegnare è davvero un lavoro molto interessante, scriveva Anna a un'amica della Queen's Academy. Jane dice che lo trova monotono, ma io non sono dello stesso avviso. È quasi certo che ogni giorno accade qualcosa di buffo e i bambini dicono cose così divertenti. Jane racconta che punisce i ragazzi quando fanno o dicono qualcosa fuori dall'ordinario, ed è probabilmente questa la ragione per cui trova l'insegnamento monotono. Questo pomeriggio il piccolo Jimi Andrew stava cercando di scrivere correttamente, lettera per lettera, macchiettato, e non ci riusciva. Beh, ha detto alla fine, non riesco a scriverlo, ma so cosa significa. Che cosa ho chiesto io? La faccia di St. Clair Donnell, signorina. St. Clair è veramente coperto di lentiggini, sebbene io tenti di impedire agli altri di far commenti su questo fatto. Una volta anch'io ero coperta di lentiggini e solo Dio sa se me ne ricordo. Credo che però a St. Clair non gli importi nulla. È stato perché Jimmy l'ha chiamato St. Clair che lui l'ha picchiato tornando a casa da scuola. Ho saputo della zuffa, ma non in veste ufficiale perché penso che farò finta di nulla. Ieri stavo cercando di insegnare a Lottie Wright a fare le addizioni. Le ho detto: se tu avessi tre caramelle in una mano e due nell'altra, quante caramelle avresti in tutto? Quante ce ne stanno in un boccone? Mi ha risposto Lottie. E durante la lezione sullo studio della natura, quando ho chiesto loro di espormi un buon motivo per non uccidere i rospi, Benji Sloan ha risposto gravemente: perché altrimenti il giorno dopo pioverebbe. È così difficile non ridere, Stella. Devo tenere in serbo tutto il divertimento finché non arrivo a casa. E Marilla dice che sentire scoppi di risa apparentemente immotivati che provengono dall'abbaino la rende nervosa. Dice che una volta un tale a Grafton è impazzito e che ha cominciato proprio così. E la sai questa, che Tommaso Moro era un negro? Rose Bell è convinta di sì. Ed è anche convinta che William Tyndale ha scritto il Nuovo Testamento. Claude White ritiene che un vetrino sia l'uomo che sostituisce i vetri nei telai delle finestre. Credo che nell'insegnamento la cosa più difficile, e anche la più interessante, sia ottenere che i bambini ti dicano quello che pensano veramente delle cose. Un giorno di pioggia, la settimana scorsa, all'ora di colazione, li ho radunati tutti attorno a me e ho cercato di farli parlare come se fossi una di loro. Ho chiesto loro di dirmi le cose che desideravano di più. Certe risposte erano piuttosto prevedibili, bambole, pony, pattini a rotelle, ma altre erano decisamente originali. Esther Boulter voleva indossare ogni giorno il vestito della domenica e mangiare in salotto. Annabelle desiderava soprattutto essere buona, ma senza per questo doversi dare tanto da fare. Marjorie White, età anni 10, voleva essere vedova. Richiesta del motivo, ha risposto gravemente che se una non era sposata la chiamavano una vecchia zitella e se poi era sposata era comandata a bacchetta dal marito, ma se era vedova non correva nessuno di questi due rischi. Il desiderio più straordinario l'ha espresso Sally Bell. Voleva una luna di miele. Le ho chiesto se sapesse di che si trattava e mi ha risposto che doveva trattarsi di un nuovissimo tipo di bicicletta molto sofisticata, perché suo cugino a Montreal era andato in luna di miele quando si era sposato ed era uno che possedeva sempre l'ultimo modello in fatto di biciclette. Un altro giorno ho chiesto loro di raccontarmi l'azione più malvagia che avessero mai commesso. Non sono riuscita ad avere risposta dai più grandi, ma la terza classe ha risposto con molta disinvoltura. E la Isabel aveva appiccato il fuoco ai rotoli di lana cardati da sua zia. Quando le avevo chiesto se lo aveva fatto apposta, mi ha risposto: non del tutto. Aveva provato solo da un capo per vedere come bruciavano e tutto il mucchio si è incendiato in un batter d'occhio. Emerson Gillis aveva speso 10 centesimi di caramelle invece di metterli nella cassetta delle missioni. La peggior colpa di Annabel era stata quella di aver mangiato dei mirtilli che crescono nel cimitero. Willie White aveva fatto scivoloni un mucchio di volte sul tetto dell'ovile con addosso i calzoni della festa. Ma sono stato castigato perché ho dovuto andare a scuola domenicale tutta l'estate con i pantaloni rattoppati. E se uno viene castigato per una cosa non è poi obbligato a pentirsene, ha dichiarato Willie. Vorrei che tu leggessi alcuni dei temi che hanno fatto. Anzi, lo desidero tanto che te ne manderò qualcuno degli ultimi. La settimana scorsa ho detto ai bambini di quarta che volevo che mi scrivessero delle lettere su un argomento a piacere. aggiungendo come suggerimento che potevano parlarmi di qualche luogo che avevano visitato o di qualche cosa o persona interessante che avevano visto. Dovevano scrivere le lettere su vera carta da lettera, metterle in una busta chiusa e indirizzarle a me, senza farsi aiutare da altri. Venerdì scorso, al mattino, ho trovato sulla cattedra una pila di lettere e quella sera mi sono di nuovo resa conto che l'insegnamento ha le sue gioie e i suoi dolori. Queste composizioni fanno perdonare molte cose. Ecco la lettera di Ned Clay, indirizzo, ortografia e grammatica come dall'originale o quasi. Signorina insegnante Shirley, Green Gables, Isola degli Uccelli. Cara maestra, penso che gli scriverò un tema sugli uccelli. Questi animali sono molto utili. Il mio gatto si piglia gli uccelli, si chiama William, ma Pa lo chiama Tom. È tutto a strisce e lo scorso inverno gli ha gelato una delle orecchie. Non fosse per quello sarebbe un bel gatto. Mio zio lo ha portato a casa un gatto. È stato un giorno a casa sua e non voleva più andar via. E lo zio dice che la sa più lunga lui di tanta gente. Lo fa dormire sulla sedia a dondolo e mia zia dice che gli vuole più bene a lui che ai suoi figli. Questo non è giusto. Dovremmo essere gentili con i gatti e dargli latte fresco, ma non dobbiamo essere meglio con loro che con i nostri figli. Questo è tutto quello che mi viene in mente. Perciò termino qui. Edward Blake Clay. St. Clair Donnell è come sempre conciso e viene subito al punto. St. Clair non spreca mai una parola. Non credo che abbia scelto l'argomento o aggiunto il postscritto con premeditazione, è solo che non ha molto tatto e ancora meno fantasia. Ecco la sua lettera. Cara signorina Shirley, lei ci ha detto di descrivere qualche cosa di strano che abbiamo visto. Descriverò il circolo ricreativo di Avonlea. Ha due porte, una di dentro e una di fuori, ha sei finestre e un camino, ha due estremità e due lati, è dipinto di azzurro, è proprio questo a renderlo strano. È costruito sulla strada bassa per Carmody. È il terzo edificio in ordine di importanza di Avonlea e gli altri sono la chiesa e la bottega del fabbro. Vi si tengono discussioni, conferenze e concerti. Distinti saluti, Jacob Donnell. Poi scritto, il circolo è di un azzurro molto vivo. La lettera di Annetta Bell era piuttosto lunga, il che mi ha sorpreso, dato che scrivere saggi non è proprio il suo forte. E in genere i suoi temi sono brevi, come quelli di St. Clair. Annette è una bambina tranquilla, è un modello di buona condotta, ma non ha un briciolo di originalità. Ecco la lettera. Carissima maestra, penso che le scriverò una lettera per dirle quanto l'amo. L'amo con tutto il cuore e la mente e l'anima, con tutto quello che in me può amarla, e desidero servirla per sempre. Sarebbe per me la più grande gioia. Ecco perché ce la metto tutta a essere brava a scuola e a imparare le lezioni. Com'è bella, cara maestra. La sua voce è come una musica, i suoi occhi sono come violette sulle quali si è appena posata la rugiada. Lei è per me come una regina, alta, solenne. I suoi capelli sono come oro che ondeggia. Anthony Pye dice che sono rossi, ma lei non ci deve fare caso a Anthony. La conosco solo da pochi mesi, ma non riesco a pensare che esisteva un tempo in cui non la conoscevo. Quando lei non era ancora entrata nella mia vita per benedirla e rallegrarla. Ripenserò sempre a quest'anno come all'anno più meraviglioso della mia vita perché mi ha fatto conoscere lei. Inoltre, è l'anno in cui ci siamo trasferiti ad Avonlea da Newbridge. Il mio amore per lei ha arricchito immensamente la mia vita e mi ha tenuto lontano dal male. Tutto ciò lo devo a lei, mia dolcissima maestra. Non dimenticherò mai quanto appariva graziosa l'ultima volta che l'ho vista con il suo abito nero e i fiori nei capelli. La rivedrò così per sempre, anche quando entrambe saremo vecchie e con i capelli grigi. Lei per me sarà sempre giovane e bella. Non faccio che pensare a lei, al mattino, a mezzogiorno e al crepuscolo. L'amo quando ride e quando sospira. L'amo anche quando appare sdegnosa. Non l'ho mai vista arrabbiata, anche se Anthony Pye dice che lo è sempre. Ma non mi stupisce che sembri arrabbiata con lui perché se lo merita. Io l'amo, qualunque sia il suo vestito. E ogni volta che cambia di vestito è sempre più adorabile. Carissima maestra, buonanotte. Il sole è tramontato e le stelle brillano, le stelle che sono vivide e belle come i suoi occhi. Bacio le sue mani e il suo viso, mia amata, possa il Dio vegliare su di lei e proteggerla da ogni male. Sua affezionata scolara Annetta Bell. Questa lettera straordinaria mi causò non poche perplessità. Sapevo che Annetta non era in grado di scriverla, non più di quanto fosse in grado di volare. Quando l'indomani andai a scuola, la portai con me a fare una passeggiata giù fino al ruscello, in un luogo solitario, e le chiesi di dirmi la verità a proposito della lettera. Annetta scoppiò in lacrime, poi confessò spontaneamente che non aveva mai scritto una lettera in vita sua e che non sapeva come fare o cosa dire, ma che nel primo cassetto del comò di sua madre c'era un fascio di lettere d'amore che le erano state scritte da un suo vecchio spasimante. Non si trattava del babbo, singhiozzò Annetta, ma di uno che studiava per diventare pastore e perciò scriveva delle bellissime lettere, ma alla fine mia mamma non lo sposò. La mamma ha detto che per molto tempo non riuscì a capire dove volesse andare a parare. Io però ho pensato che le lettere erano graziose e che avrei potuto copiare qualche frase qua e là per scrivere a lei. Ho messo maestra dove lui diceva signora e poi ho aggiunto del mio quando mi veniva in mente e ho cambiato qualche parola. Ho messo vestito invece di umore e non sapevo che cosa fosse l'umore, così ho supposto che fosse una cosa da indossare. Non credevo che lei si sarebbe accorta. Come ha fatto a capire che non era tutta farina del mio sacco? Lei deve essere molto intelligente, signorina maestra. Allora ho spiegato ad Annetta che non era simpatico copiare la lettera di una persona e farla passare come propria, ma temo che l'unica cosa di cui Annetta si sia rammaricata è il fatto di essere stata scoperta. Ma io l'amo, maestra, protestò singhiozzando. Era tutto vero, anche se il pastore la lettera l'ha scritta lui per primo. Io l'amo con tutto il cuore. È molto difficile, capisci, in circostanze del genere, rimproverare qualcuno con la dovuta severità. Ed eccoti la lettera di Barbara Shaw. Non posso riprodurre le macchie dell'originale, perciò accontentati. Cara maestra, lei ha detto che potevamo scrivere di una visita e io mi sono recata in visita soltanto una volta. Ed è stato l'inverno scorso da mia zia Mary, la cui donna è molto pignola e bravissima donna di casa. La prima sera che eravamo lì abbiamo preso il tè. Io ho urtato in un bricco e l'ho rotto. Zia Mary ha detto che il bricco era dei tempi del suo matrimonio e che nessuno mai l'aveva rotto prima di allora. Quando ci siamo alzati ho inciampato nel suo vestito e tutte le crespe della gonna sono venute via. Il mattino dopo, quando mi sono alzata, ho sbattuto con la brocca contro il catino e tutto è andato in pezzi. Poi a colazione ho rovesciato una tazza di tè sulla tovaglia. Mentre aiutavo zia Mary per il pranzo con i piatti, ne ho lasciato cadere uno di porcellana ed è andato in frantumi. E quella sera poi sono caduta ai piedi delle scale e mi sono slogata una caviglia e ho dovuto stare a letto per una settimana. Così ho sentito la zia Mary che diceva allo zio Joseph che quella era una grazia di Dio, altrimenti avrei rotto tutto quello che c'era in casa. Quando mi sono rimessa era giunto il momento di tornare a casa. Non mi piace molto recarmi in visita. Preferisco andare a scuola, specialmente da quando sono venuta da Von Lee. Rispettosi saluti, Barbara Shaw. La lettera di Willie White cominciava così. Pregiatissima signorina, vorrei parlarle della mia coraggiosissima zia. Vive ad Ontario e un giorno uscì di casa per andare nel fienile e vide un cane nel cortile. Il cane non c'entrava proprio per niente lì e allora lei prese un bastone, gliene diede tante e poi lo spinse nel fienile e chiuse la porta. Presto arrivò un tale che cercava un leone immaginario. Domanda, che Willy intendesse un leone di serraglio? Che era scappato da un circo. E così si scoprì che il cane era un leone e che la mia coraggiosissima zia lo aveva rinchiuso nel fienile a colpi di bastone. È incredibile che lui non se la sia mangiata, ma lei è stata molto coraggiosa. Emerson Gillis dice che se la zia pensava davvero che si trattasse di un cane, non è poi stata tanto più coraggiosa che se si fosse trattato di un cane. Ma Emerson è geloso perché non ha una zia coraggiosa lui, ma soltanto una dozzina di zii. E per ultima ho tenuto la più bella. Tu mi prendi in giro perché io sono convinta che Paul è un genio, ma sono sicura che questa lettera ti persuaderà che è davvero un ragazzino molto fuori dall'ordinario. Paul vive un po' isolato vicino alla spiaggia con la nonna e non ha compagni di giochi, non ha dei veri amici, intendo. Ricordi quando il nostro professore di pedagogia ci diceva che non dovevamo avere nessun cocco tra gli allievi? Questo è giusto, ma io non posso fare a meno di volere bene in particolare a Paul e non credo di fare male perché tutti amano Paul, perfino la signora Linde. la quale dice che non avrebbe mai creduto che non si sarebbe mai affezionata in questo modo a un americano. Anche gli altri ragazzi a scuola gli vogliono bene. Con tutti i suoi sogni e le sue fantasie non è per nulla un debole, anzi è molto coraggioso, partecipa a tutti i giochi e spesso vince. Ultimamente ha fatto a botte con Sinclair Donnell, perché Sinclair aveva sostenuto che come bandiera la Union Jack inglese batte di parecchio quella americana, Stars and Stripes. Il risultato è stato un combattimento prolungato e il mutuo accordo che d'ora in avanti l'uno avrebbe rispettato il patriottismo dell'altro. Sinclair dice che lui picchia sodo, ma che Paul picchia svelto. Ti va l'idea? Ed ora ecco la lettera di Paul. Mia cara maestra, lei ci ha detto che potevamo scriverle di alcuni personaggi interessanti che conosciamo. Penso che la gente più interessante che conosco siano gli abitanti delle rocce e ho intenzione di parlarle di loro. Non ne ho mai parlato con nessuno tranne che con la nonna e il babbo, ma vorrei che anche lei li conoscesse perché lei capisce le cose. C'è una gran quantità di gente che le cose non le capisce, sicché non vale la pena di dirgliele. I miei abitanti delle rocce vivono sulla spiaggia. Di solito andavo a trovarli quasi ogni sera, prima che giungesse l'inverno. Ora non potrò andarci fino a primavera, ma essi saranno sempre lì perché gente come loro non cambia mai. È questo il fantastico con loro. La prima che ho conosciuto è stata Dora, e perciò credo che sia quella a cui voglio più bene. Vive nella cala Andrews e ha i capelli neri e occhi neri e sa tutto sulle sirene e sugli spiriti maligni delle acque. Dovrebbe sentire le storie fantastiche che racconta. Poi ci sono i due marinai gemelli. Non vivono da nessuna parte. Navigano continuamente, ma spesso vengono a terra a parlarmi. Sono una coppia di allegroni, ne hanno viste di cotte e di crude in questo mondo e anche in quello di là. Sa cos'è accaduto una volta al più giovane dei gemelli? Andava a vela e si è trovato diritto nella scia della luna. La scia della luna, signorina maestra, è la scia che la luna piena fa sull'acqua quando si alza dal mare. Beh, il più giovane dei gemelli ha continuato ad andare a vela lungo la scia finché è arrivato giusto sulla luna e nella luna c'era una porticina d'oro. E lui l'ha aperta e vi è passato attraverso con la sua barca. Sulla luna ha avuto una quantità di meravigliose avventure, ma se gliela raccontassi la lettera diventerebbe troppo lunga. Poi c'è la signora d'oro nella caverna. Un giorno ho trovato una gran caverna laggiù sulla spiaggia e vi sono entrato dentro. E dopo un certo tempo ho trovato la signora d'oro. Ha i capelli d'oro, lunghi fino ai piedi, e il suo vestito è tutto un gran luccicare d'oro, oro vivo. Ha un'arpa d'oro e vi suona tutto il giorno. Se ne può udire la musica in ogni momento lungo la spiaggia, ma molti credono che sia soltanto il rumore del vento tra le rocce. Non ho mai parlato ad Ora della signora d'oro. Temevo di offendere i suoi sentimenti. La addolorava persino vedermi parlare troppo con i marinai gemelli. Di solito incontravo i gemelli alle rocce rigate. Il più giovane dei due è di buon carattere, ma il più vecchio a volte ha l'aria molto truce. Penso che se ne avesse il coraggio farebbe il pirata. C'è attorno a lui un alone di mistero. Una volta si è lasciato sfuggire un'imprecazione e gli ho detto che se mai l'avesse fatto ancora doveva rinunciare a venire a terra a parlarmi, poiché avevo promesso alla nonna che non avrei mai avuto a che fare con gente che imprecava. Si è davvero spaventato, gliel'assicuro, e ha detto che se l'avessi perdonato mi avrebbe condotto fino al tramonto. Sicché la sera dopo, mentre me ne stavo seduto sulle rocce rigate, il gemello più vecchio è arrivato veleggiando dal mare su una barca incantata e io sono salito a bordo. La barca aveva il colore delle perle e dell'arcobaleno, come l'interno delle conchiglie dei mitili, e la vela pareva fatta di chiaro di luna. Bene, abbiamo navigato diritti verso il tramonto. Pensi, signorina maestra, sono andato nel tramonto. Come pensa che sia? Il tramonto è una terra tutta fiorita, come un grande giardino, e le nuvole sono aiuole di fiori. Siamo entrati in un gran porto di tutti i colori dell'oro e scendendo dalla barca ho messo piede in un enorme prato, tutto coperto di ranuncoli grandi come rose. Vi sono rimasto a lungo. A me è sembrato quasi un anno, ma il vecchio dei gemelli ha detto che erano stati solo pochi minuti. Sa, nel paese del tramonto il tempo è molto più lungo che qua. Con tutto l'affetto del suo scolaro, Paul Irving. P.S. Naturalmente questa lettera non racconta la pura verità, cara maestra.